faccio, sorridi e sei confusa, e lui così sincero, il fango nelle mani gli si trasforma in grano, l'oggi in domani. Strano, né un cenno.